Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i titoli e le notizie di questa giornata economico-finanziaria. Beh, chiaramente avete già sentito dai nostri GR, la situazione in Egitto si sta complicando, ahimè. Devo dire che non c'è un effetto, per quanto possa essere importante, sui mercati, inteso come euro e a quota 1,38. Il petrolio invece è tornato a crescere un po', 91,13 dollari. Tra l'altro ieri ricorderete che a Londra il Brent ha superato i 102 dollari al barile, pesa più su Londra che su New York, il livello più alto dall'autunno del 2008, quando vi furono le tensioni in Medio Oriente. Ancora, per quello che riguarda le materie prime, l'oro è in leggero rialzo, ma anche qui siamo a 1.343 dollari l'oncia. Sempre sul fronte egiziano, che è la notizia più importante ovviamente dal punto di vista internazionale in queste ore, la banca centrale egiziana ha deciso comunque la riapertura la domenica. In Egitto infatti il venerdì è giorno di festa, come in molti paesi musulmani la domenica riapre, la domenica in qualsiasi condizione possono essere le banche, cioè la banca centrale egiziana ha decretato che le banche del paese apriranno in ogni caso domenica. Ricordo che sono chiuse da 5 giorni a questa parte. Sul fronte internazionale c'è anche un abbassamento del voto, ma niente di eccessivamente grave sull'Irlanda. E poi la possibilità, che continua a essere confermata e rafforzata soprattutto nelle sue indiscrezioni, di un nuovo vertice Parigi Berlino, ho allargato a questo punto anche i vari leader della zona euro dall'inizio di marzo per sapere e decidere come affrontare eventuali nuovi attacchi speculativi. Di cosa ci occuperemo oggi? Beh, ci occuperemo del potere d'acquisto e dei salari degli italiani, e anche qui, senza nessuna demagogia, uniremo questo dato, che non è bello, perché insomma oggi i redditi delle famiglie sono calati del 2,7%, lo dice l'Istat, nel 2009, il primo calo del 1995. Questo lo dico perché, secondo una fonte Istat, non vorrei avere messaggi orientati politicamente di chi dice: ah, ecco, fate il gioco dell'opposizione, fate il gioco del governo. L'Istat fotografa un calo nel reddito delle famiglie, alla faccia e al di là di qualunque rassicurazione di questi 2 anni. La crisi non c'è, i ristoranti sono pieni, la gente compra il cellulare, gira col SUV. Sarà, mica c'è per tutti la crisi, mica c'è per tutti nello stesso modo. Ma l'Istat ci dice meno quasi 3% nel 2009, primo calo dal 1995. Chiuso il tema, confronteremo questo dato con i bonus dei manager, quanto guadagnano gli amministratori delegati italiani. C'è un rapporto infatti che è uscito, vi dico subito che la notizia è che non hanno un guadagno così alto, soprattutto se in proporzione a quello americano, cioè se si va a vedere quanto guadagna il top manager rispetto all'impiegato, non c'è la sproporzione in Italia che c'è in America, siamo molto molto al di sotto di questo. Quello che emerge però è che i bonus sono spesso poco collegati, se non scollegati, dall'andamento, dai risultati aziendali. Questo è il vero tema, cioè vengono presi comunque. In America nel frattempo su questo è arrivato un dato che farà arrabbiare qualcuno, cioè di nuovo si è andati a guardare quanto guadagnano, come stanno andando i bonus. In America, Wall Street, sono stati distribuiti 135 miliardi di dollari, tanto poco, diciamo che è il 6% in più rispetto al 2009, quindi Wall Street già festeggia. La percentuale di ricavi distribuiti in bonus, alla faccia di chi diceva che dopo la crisi bisognava tornare a dare stipendi ai manager e meno bonus, perché erano distorsivi per la gestione aziendale, è aumentata del 32% la componente di quanto guadagna un manager americano relativa ai bonus. I compensi medi sono saliti del 3% a $141,000 per dipendente. Questi sono i manager e dipendenti delle banche quotate e delle società di trading a Wall Street. Di questo parleremo nella seconda ora. I mercati subito con le notizie in breve. Allora, c'è chi chiede se sono milanista, ma chi se ne frega, comunque non sono milanista, non vi preoccupate. Andiamo avanti con le notizie. Banco Popolare più 4%, è il titolo più forte oggi in borsa tra quelli a maggiore capitalizzazione. La borsa non guadagna come ieri, più 0,30, però Milano è decisamente meglio di Parigi, meno 0,30, Francoforte meno 0,20. Londra più 0,67% invece, l'America meno 0,12%. Ho dimenticato il numero per gli sms, mi fanno notare, avete ragione, 349-238-6666. Torniamo alle notizie, euro su dollaro a quota 1,38, stabile quindi l'euro, tra i titoli oltre al Banco Popolare anche di Assorin più 3,26%, Unicredito più 2,5%, Intesa più 2, UbiBanca più 1,60, Mediobanca più 1,30. Parmalat meno 2,60, Exor meno 2,5, Finmeccanica meno 2,20, Ansaldo meno 2, Autogrill meno 2%. Buzzi Unice meno 1,40, Luxottica pure, Monte dei Paschi perde 1,20 come Fiat e Tods, l'1% è calo di Saipem ed Enel. Passiamo all'Italia, anzi ancora un paio di notizie di carattere internazionale e poi passiamo all'Italia. La Porsche ha venduto, questo è un dato importante per capire come va la ripresa anche americana, il 34% in più negli Stati Uniti a gennaio, con un vero e proprio boom della Cayenne, ossia del SUV della Porsche, più 77%, mentre il bilancio di Warner Brothers è arrivato in crescita grazie a Harry Potter. L'utile è stato spinto al 22% in aumento a 769 milioni di euro grazie in particolar modo al successo al botteghino dell'ultima serie di Harry Potter. Il gigante farmaceutico Pfizer ha annunciato la chiusura del centro di ricerca britannico dove è stato creato il Viagra. Non so se questa notizia possa dispiacere a qualcuno in questo paese. La chiusura è nel centro a Sandwich, nel Kent, e in realtà la notizia è molto seria perché ci sono 2.400 impiegati e dipendenti, e fa parte questa ristrutturazione di quell'operazione di chiusura della Pfizer che hanno purtroppo coinvolto anche lo stabilimento italiano di Catania. Vedo già molte domande sul reddito delle famiglie italiane. Confermo, meno 3%. Meno 3% il reddito delle famiglie italiane. E ancora il nord è il più colpito, perché insomma, è la parte più produttiva del paese. Il reddito delle famiglie italiane è calato del 4% al nord-ovest, del 4,1%, del 3,4% nel nord-est, solo dell'1,8% al centro e dell'1,2% al sud. Questo però non è così inusuale perché intanto si partiva da redditi molto più alti al nord che al sud, la parte produttiva del paese è più al nord che al sud, questa è una banalità, e quindi la crisi si è sentita più lì. Se qualcuno dice fra poco dispiacerà anche a lei la chiusura dello stabilimento della Pfizer a Sandwich del Viagra, non lo so, non abbiamo detto che hanno smesso di produrlo, abbiamo detto che ci sono 2.400 persone che perdono il lavoro in Gran Bretagna e che ci sono quelle che l'hanno già perso dallo stabilimento di Catania. Ancora sul federalismo, vedremo domani, una grande giornata del federalismo, oggi non ne parliamo, c'è stato un incontro Calderoli, Baldassarri e il Premier, e i nostri GR vi hanno già aggiornato, domani la bicamerale vota alle 12.45. Nel frattempo oggi alcuni interventi del ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta, che ha precisato come dalle ore 11 di oggi tutte le certificazioni trasmesse online all'INPS sono già arrivate a quota 90.000 e si prevede per la giornata di oggi 100.000 certificati. Grazie a questo nuovo sistema di certificazione che vi abbiamo raccontato anche in questi giorni nei nostri GR, Brunetta conta di risparmiare almeno 200 milioni di euro l'anno solo per le raccomandate. Sentiamolo. Siamo tra gli 80 e i 100 mila invii giornalieri. Siamo a valori di 400-500 mila invii settimanali e quindi siamo a 20-25 milioni di invii a livello annuale. 20-25 milioni di invii a livello annuale vogliono dire il doppio o più del doppio degli invii cartacei. Questo dà il senso della rivoluzione in atto. I cittadini, i lavoratori dipendenti implicati sono 18 milioni, cioè tutti i lavoratori dipendenti privati più i 3 milioni e mezzo di lavoratori pubblici. Questi 18 milioni a regime, e praticamente siamo già a regime, non dovranno più inviare le due raccomandate con dentro il certificato medico all'INPS, come avveniva nel passato, ipotizzando che questi 18 milioni facciano due assenze di malattia all'anno, 18 più 18 fa 36, e che invino le due raccomandate e quindi 36 per 2 fa 72, quindi 70 milioni di raccomandate, e calcolando il costo di una raccomandata che mi pare sia 3 euro e mezzo se non sbaglio, 76, 72, 70 per 3 euro e mezzo fa più di 200 milioni di euro. Questo è il risparmio monetario per i 18 milioni di cittadini italiani lavoratori dipendenti. Allora, adesso do anche qualche risposta, perché nonostante, scusatemi, il mio appello, qualcuno continua a scrivere sul reddito delle famiglie italiane. Vabbè, i certificati online invece, restiamo sul tema. Tra il presidente dell'INPS, Mastra Pasqua, nel presentare i certificati online, che ripeto è un'iniziativa ottima, a mio avviso tutto quello che fa risparmiare carta, costi della burocrazia va applaudita. Poi non so se saranno veramente 200 milioni di euro di risparmio, ma fossero anche 2 milioni, chi se ne frega, comunque un risparmio, meglio ovviamente se sono 200. Dicevo, Mastra Pasqua, il presidente dell'INPS, ha chiarito quanto costa all'INPS la copertura delle malattie di chi paga l'INPS, appunto, chi paga i contributi INPS, sono 3 miliardi di euro l'anno. L'istituto spende ogni anno svariati miliardi di euro, doverosamente in base alle leggi, per coprire le malattie che hanno, superiamo i 3 miliardi di euro, quindi insomma sono cifre importanti, ma soprattutto credo che sia obbligo dell'istituto dover fare dei controlli. Quindi la più grande opportunità di questa iniziativa è non solo quella di aver modernizzato, far risparmiare 200 milioni di euro ai dipendenti, che comunque è una cifra importante sulle singole persone, ma quella di creare un sistema, una banca dati. Beh, questo è un salto in avanti del nostro Paese formidabile, perché l'INPS dovrà e metterà a disposizione del Ministero della Funzione Pubblica, Ministero della Salute, Regioni, Ministero del Lavoro, INAIL, un bagaglio di dati fino ad oggi sconosciuto, che credo che possa consentire a qualsiasi decisore, sia imprenditoriale, sia politico, sia di parti sociali, di assumere delle iniziative di tutto rispetto. Cioè, qui si scoprono cose, innanzitutto tra il pubblico e il privato, io non commento, i dati sono qui, che forse smentiscono quello che sempre si diceva. C'è maggior frequenza nel pubblico, minore ma con maggior durata nel privato. Ma le persone sono uguali, allora si può cominciare a vedere settori analoghi di attività, che cosa c'è di diverso rispetto ai settori. Come mai ci si ammala molto spesso in aziende più grandi rispetto a aziende più piccole? Bella domanda, avrò voluto anche la risposta da Mastro Pasqua. Perché ci si ammala di più nelle aziende più grandi e di meno in quelle piccole? perché c'è un maggiore controllo sociale, perché c'è una maggiore responsabilizzazione del dipendente, perché si sente più una famiglia, perché ci sono dei bonus più forti, non lo so veramente, perché l'azienda più grande è più personalizzante, boh, non lo so. Poi bisognerebbe capire anche qua cosa si intende per azienda grande, ma detto ciò, dicevo che sono già arrivati messaggi sul reddito delle famiglie. Allora, ne parliamo alle 18:07. Una cosa però la devo dire. Allora, va bene tutto, al di là del metodo, tanto siamo abituati ormai, l'imbarbarimento si vede anche dagli sms. Solo un idiota pensa, che sarei io chiaramente, pensa che un calo del 3% nel reddito delle famiglie possa essere importante. Allora, guardi, io sono anche un idiota, questo diciamo, non è una notizia, non c'è notizia, vedo che anche il tecnico di regia con la testa fa sì sì, insomma, gli assistenti al programma non lo possono fare perché rischiano il posto. Però insomma, il punto è un altro, non è la mia idiozia e la cifra della mia idiozia. Il 3% di reddito di una famiglia significa per una famiglia che ha 50.000 euro l'anno, una famiglia, rinunciare a 1.500 euro. Poco? Oh, ce li dia lei allora, dai. Che è così intelligente. Invece andiamo con le cose di questo programma idiota, ossia di uno studio diffuso da Ernst Young in collaborazione con l'Economist Intelligence Unit. Dice, mamma mia, cosa sarà? No, è uno studio molto, molto semplice in realtà nel suo obiettivo. È andato a vedere, in un mondo sempre più globalizzato e sempre più aperto, la Terra è piatta, un famoso libro di qualche anno fa, quali sono i paesi che si stanno che stanno diventando policentrici, cioè che ampliano il loro orizzonte non solo al singolo continente o stato-nazione, ma alle diverse aree geografiche. Misura sostanzialmente le principali 60 economie al mondo in base al grado di globalizzazione e in rapporto al loro PIL. Dico subito che l'Italia non è prima in classifica, ma non è nemmeno messa male, cioè siamo messi molto peggio quando parliamo di criminalità, di merito, di ruolo delle donne nel lavoro. Lì siamo sempre in fondo a classifiche tra i Balcani e il Nord Africa. Invece qui non siamo messi così male, questo va riconosciuto alle nostre imprese soprattutto. Siamo al 31° posto, insieme alle economie tipo la nostra. Certo, al primo posto c'è Hong Kong, all'ultimo c'è l'Iran. Tra l'altro siamo anche cresciuti come posizionamento grazie agli avanzamenti tecnologici e agli scambi commerciali, ce l'ha spiegato, o meglio l'ha fatto la collega dell'agenzia di stampa di Radio Corriere Sole 24 Ore, Giuliana Licini, e lo ha spiegato, dicevo, John Ferraro, che è il Chief Operating Officer di Ernst Young, che ha condotto la ricerca. The world's changed, there are multiple spheres of influence, and sometimes those spheres of influence. Il mondo è cambiato e ci sono molteplici sfere di influenza che spesso divergono, non vanno nella stessa direzione. Da qui deriva il fatto che viviamo in un mondo con più centri nevralgici, un mondo policentrico. Penso che le imprese debbano fare alcune cose nel modo corretto, arrivare a un giusto equilibrio tra globale e locale, innovare nei mercati strategici e avere capacità di adattamento ai diversi contesti. Per ciò che riguarda l'Italia, pensiamo che sia uno dei più grandi mercati, ma come tutti i mercati sviluppati, anche l'Italia deve capire che c'è stato uno spostamento. Oggi, infatti, quasi il 50% del PIL è creato nei mercati emergenti. Occorre quindi comprendere che la globalizzazione sta avendo profonde influenze sui mercati più maturi. L'indice che abbiamo elaborato con l'Economist Intelligence Unit misura le 60 principali economie mondiali in base al grado di globalizzazione in rapporto al loro PIL. Il fatto che l'Italia sia in basso alla classifica non significa che non si sta globalizzando. L'Italia lo ha fatto e dal 1995 c'è stata una crescita e prevediamo che continui in questa direzione. Una crescita dovuta soprattutto alla tecnologia e agli scambi commerciali. E continuiamo ad osservare un progresso in Italia verso la globalizzazione. Anche altri grandi paesi sono nella seconda metà della classifica, perché incide la dimensione del mercato interno di un paese e il rapporto con i mercati esterni. Ai primi posti ci sono luoghi con alti livelli di globalizzazione, come Hong Kong e Singapore, che hanno mercati interni piuttosto piccoli. We'll be right back. l'altro aspetto con cui la collega Giuliana Licini ha e su cui ha interrogato il curatore della ricerca Ernst Young, quindi John Ferraro, è gli aspetti, diciamo, utili, che fare per favorire il grado di globalizzazione del nostro paese, ripeto, in una classifica che una volta tanto non ci vede messi così male, ci vede nel pattuglione, nel gruppone delle economie occidentali, spesso europee. Sentiamo la risposta. Dunque, ci sono un paio di aspetti da considerare per l'Italia. La crescita del PIL è stata sostanzialmente piatta negli ultimi due anni, intorno all'1%. Inoltre, se si guarda le società più grandi come Eni, Enel, Fiat, direi che stanno diventando sempre più globali. Hanno compiuto diverse acquisizioni e fanno parte della classifica delle 100 società più grandi al mondo. Quindi l'Italia ha un ruolo importante sui mercati internazionali. Le sue maggiori aziende ne acquistano altre e fanno affari in 10, 20, 30 paesi nel mondo. L'Italia dunque è un protagonista di primo piano, una forza importante nel contesto economico mondiale. Allora, dopo invece parliamo anche di innovazione, perché è intervenuto il numero uno di Telecom Italia Franco Bernabei, il Nobel dell'economia 2006 Edmund Phelps e il presidente della Camera Gianfranco Fini, in un convegno dedicato proprio alla spesa in ricerca e sviluppo di questo paese, che è bassa, anche se spesso sfugge, e poi a come fare ad aumentarla. Un paio di risposte. Allora, c'è chi dice: sul reddito delle famiglie italiane il calo non è del 2,7, non è del 3%, è del 2,7. Allora, la media è 2,7, siccome però al nord, era quello riferimento che facevo, è superiore al 3,1%, anzi, visto che oggi siamo tutti pignoli e precisi, vado a riprendermi il dato esattamente in decimali, così non vengo contestato su questo. Il reddito delle famiglie italiane è calato del 4,1% nel nord-ovest, del 3,4% nel nord-est, dell'1,8% nel centro del paese, dell'1,2% al sud. Però obiettivamente, come spesso facciamo in questo programma, la cosa più importante non è il dato assoluto né il dato percentuale, è il raffronto col dato storico. Allora, nel momento in cui l'Istat ci dice che è la prima volta che cala in questo modo dal 1995, secondo me questo è il riferimento, al di là delle percentuali, del decimale. Poi una risposta anche a chi scrive sempre al 349-238-6666 sul quanto diceva il presidente dell'INPS, che la malattia è più bassa nelle piccole aziende, nelle piccole imprese rispetto alle grandi multinazionali. Vedo molte ipotesi: si sente meno controllato, sa che qualcuno lo sostituirà se lavori in una grande azienda, mentre in una piccola impresa ti senti indirettamente o direttamente più responsabilizzato, e questo può essere vero. Poi c'è chi dice: ma insomma, nelle grandi aziende i batteri e i germi circolano molto di più e sono fonti di malattia. Allora, quello che c'ha i figli, dai. Questa mi ha fatto ridere, allora e l'apprezzo. Meteo, delle grandi aziende come dei lazzaretti, oddio, delle volte sì, ma più che altro per la crisi. Se continua così sembreranno dei lazzaretti a forza d'Italia. Andiamo al meteo, alla pubblicità e poi alla borsa, più 0,60%, e poi agli investimenti in ricerca e sviluppo. Bene la chiusura comunque a Milano, in questi ultimi minuti ha recuperato parecchio ed è con Londra la migliore. 349-238-6666 per i vostri sms. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso andiamo ai dati di borsa e poi al resto. Dunque, alcuni ci chiedono invece della patrimoniale. Ripeto, non ne abbiamo parlato per un motivo. È un'operazione così molto intellettuale, accademica, tra il Foglio di Ferrara, il Corriere della Sera e quant'altro. non c'è nessun elemento concreto. Se volete fare una puntata sulla patrimoniale, potremmo farla su tante cose, sulla patrimoniale, su qualunque ipotesi, sulla privatizzazione, nazionalizzazione dei beni. Insomma, mi sembra un argomento di pura accademia. Dal punto di vista politico mi sembra una grandissima tafazzata per chiunque la proponga in questo momento e in questo contesto. È chiaro che fossimo di fronte fra 3-4 mesi a un attacco di nuovo speculativo sui debiti sovrani, con una Spagna in ginocchio, l'Italia prossimo bersaglio, la necessità di fare una manovra come quella che fece Amato e poi Dini e Ciampi in quegli anni, allora sì, ragioneremo su come trovare le risorse per mettere in sicurezza il paese. Ma non mi sembra il caso, mi sembra assolutamente masochistico, appunto tafazzista, parlarne con un effetto boomerang indiscutibile. La borsa, ancora non, c'è chi non crede ai dati Istat, va bene, non crede ai dati Istat, a che cosa crede? Gli rifornirà qualcun altro i dati? Noi cosa dobbiamo fare? Cioè, uno non crede ai dati Istat e non ascolta questo programma. Noi invece ai dati Istat crediamo, anche quando non ci piacciono, anche quando non sono belli, anche quando non ci convincono, come nel caso famoso del passaggio lira-euro di questa inflazione. Però insomma, questi sono i dati. Allora, dicevo, la giornata di borsa oggi vede Milano di nuovo andare meglio rispetto ad altre borse europee, grazie di nuovo ai bancari, che oggi si chiamano Banco Popolare più 4,56%, Unicredit più 3%, Intesa più 2,60%, UbiBanca più 2,25%, Mediobanca più 1,66%, negativa invece tra i bancari ancora il Monte dei Paschi, con le ipotesi di un aumento di capitale che continuano a circolare, meno 1,1%. Guido Maurino, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, come mai le nostre banche fanno faville, o meglio, fanno faville anche le altre banche europee? Sì, fanno faville anche le altre banche europee, perché oggi è stata una giornata positiva per tutto il settore bancario. L'indice DJ Stocks di settore ha chiuso in rialzo dello 0,6%, quindi mediamente anche le altre banche hanno fatto bene in Europa, mentre hanno fatto male l'auto e tutto il settore industriale, che sugli altri listini pesano di più e che hanno appunto portato alle flessioni che si sono registrate alle borse di Parigi e Francoforte. Allora, ancora sugli altri titoli, vedo chi dice che non può chiamare accademico quello che è un dibattito di pura chiacchiera sulla patrimoniale. Io ho detto che accademia, cioè si ragiona a livello di accademia, ma poco interessante per noi che siamo idioti, un po' ignoranti, ma molto concreti, almeno questo ce lo riconoscerete. Dicevo, Exor meno 2,61, Fiat meno 1,90, Fiat Auto. La borsa si è accorta del tonfo anche ieri di Fiat, abbiamo fatto la battuta adesso dopo i modelli. Nelle relazioni industriali, nei modelli sindacali, Marchionne deve pensare ai modelli di auto, perché qua non ci siamo. Prego. Sì, perché comunque tutta la Grazia del Lingotto oggi non è andata bene, non è andato bene in generale il comparto auto europeo, in quanto nei maggiori mercati si continua a notare un mercato comunque debole, con poche immatricolazioni. Ieri erano stati diffusi i dati sulle nuove auto in Italia, dove appunto il Lingotto aveva fatto peggio del mercato, con una contrazione a gennaio del 27,7%. Sì, tranne l'Alfa Romeo, perché ha un nuovo modello, che è la Giulietta, a dimostrazione che i modelli servono, e non solo nella moda. Vai. E poi oggi sono usciti anche i dati sui mercati francese, su quello tedesco. Sul fronte francese Fiat ha fatto bene, mentre ha fatto male su quello tedesco. Ieri sera poi sono usciti i dati anche sul Brasile, dove Fiat è stata scalzata come primo costruttore d'auto da Volkswagen. Anche questa non è una buona notizia per Fiat, visto che proprio dal Brasile arriva molta parte delle vendite del gruppo. Sì, chissà, magari faremo anche una puntata su Fiat, su perché si è arrivata così in ritardo sui nuovi modelli, forse un po' distratta da Chrysler, forse, non lo so. Andiamo avanti, Mondo Home Entertainment meno 12,5%, Investimento e Sviluppo meno 5,60%, Elica meno 4,37%, Benetton meno 3,85%, Antichi Pelletieri meno 3,82%, De'Longhi meno 3,5%, questi sono i peggiori di oggi. Molti di questi titoli avevano guadagnato tantissimo in questi giorni. Benetton no, però lì pesa la multa, l'indagine dell'Agenzia delle Entrate, la multa milionaria per evasione fiscale? Ma no, più no. Che altro frega niente a nessuno. No, nel senso che oggi sono arrivati un po' di report negativi sul titolo e questo oggi ha pesato un pochettino, ma non tanto la multa, ecco, quanto piuttosto un sentiment che sta cambiando sul mercato rispetto al titolo. Va bene, Sadis Servizi Industriali più 12,90 è il miglior titolo, Icon più 11,7 è il secondo miglior titolo, poi Edes più 9,50 come Ratti, IT Way, First Capital 7,90 EF il 6,60%. Torniamo ai titoli grossi e quelli più conosciuti. Al di là del tris di banche, Diasorin, non ce lo occupiamo mai, ma sta crescendo tantissimo Diasorin. Dobbiamo notare che solo nell'ultima settimana è una debuttante. 12%. Dopo averlo notato, mi sai anche dire perché? No, non so dirti perché, però so che nell'ultima settimana ho visto anch'io che ha guadagnato il 12%. Ed è anche vero che è scattato soprattutto nella parte finale di borsa, ecco, non era così questa mattina, l'ultima ora e mezza di contrattazioni si sono concentrati gli acquisti. Eccoci, per quello che riguarda invece Enel Green Power ed Enel, domani dovrebbero arrivare i conti, no? E domani? Quelli di Enel Green Power dovrebbero arrivare già stasera. Questa sera. Ah, grazie. Perfetto, e domani Enel invece? Esatto. Ecco, titolo invariato nel Green Power e invece per quello che riguarda Enel meno 0,77%. Poi c'è Parmalat con i fondi che vogliono una testa di Bondi, aveva guadagnato in questi giorni, c'è l'assemblea d'aprile meno 2,25%. Sì, diciamo che da quando i fondi sono usciti allo scoperto la scorsa settimana c'è stato un balzo del titolo del 15%, oggi ci sono ovviamente un po' di prese di beneficio, anche se resta sempre alta l'attenzione perché bisogna capire se si arriverà a una sorta di mediazione fra bondi e fondi o se altrimenti ci sarà una lista che vedrà magari i bondi come candidato per la riconferma alla carica di amministratore delegato. E ancora poi domani ad aprile, scusatemi, ne sentiremo parlare. Altri titoli: Finmeccanica meno 1,90, Ansaldo STS meno 2%, Luxottica perde l'1,44, Autogrill l'1,70% e Buzzi Unicem l'1,1, Monte dei Paschi abbiamo detto, Tods meno 1%. Visto che parliamo di Tods, sai dove voglio arrivare, vero? RCS, Rizzoli. Rizzoli, Corriere della Sera. Bravo, nel senso che Della Valle, che è proprietario di Tods, ma ha anche una quota importante nel gruppo Rizzoli Corriere della Sera, ha detto, insomma, le generali devono uscire dal gruppo Rizzoli Corriere della Sera e quindi devo uscirci anche Geronzi in qualche modo, perché questo lo aggiungo io. Il titolo RCS. RCS oggi ha reagito con un rialzo del 5,05%. Sente aria di guerra. Sente aria di guerra, sente aria di cambiamento, come ricordavi tu oggi Della Valle al termine del Consiglio di Generali ha rilasciato una dichiarazione in cui sostanzialmente ribadiva quello detto pubblicamente in Consiglio, cioè che ha chiesto che Generali esca da RCS, Generali al 3,4% nel gruppo editoriale. E quindi insomma si attendono ora le prossime mosse, anche perché sembra che la questione dovrebbe essere esaminata in uno dei prossimi consigli di generali, per cui insomma staremo a vedere. Sì, staremo a vedere, certo è che ricordo che le generali hanno il 3% nel patto dell'RCS, per cui è una quota importantissima, oltre che voglio dire controllare Corriere della Sera, sappiamo che da sempre è così un interesse, un'ambizione. Dei poteri forti, della politica, di tutti, no? Avere un voce in capitolo lì dentro. Comunque, grazie Guido Maurino, Radio Corriere Sole 24 Ore, il traffico e poi le altre notizie di questa giornata economico-finanziaria 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta, allora vedo molti messaggi ancora sul calo del reddito delle famiglie italiane al 3%, 10 minuti, un quarto d'ora ci arriviamo. Giustamente c'è chi fa notare che con un reddito di 25.000 euro lordi annui il 3% significa privare sua figlia il corso di sport, in questo caso di danza, perché insomma 25.000 euro lordi l'anno, adesso vado a spanne, a calcolo 1.500 euro lordi in meno, insomma sarà sui 1000 euro, sui 750 euro lordi in meno, sui 500 euro netti in meno all'anno, che però se ne guadagni 25.000 euro lordi pesano tanto, lo dico tranquillamente. Se questo poi è populista, parliamo solo di chi guadagna o più di 200.000, oppure di quelli, volete le categorie? No, dai, gioiellieri? Ripartiamo con le categorie della dichiarazione dei redditi? No, non ce l'abbiamo con i gioiellieri, anzi, rendono felici le nostre compagne e meno noi averle. Comunque adesso parliamo degli artigiani, altra categoria che delle volte viene accusata anche di non essere trasparente nell'evasione, ma che ha oggettivamente patito duro in questi anni, quindi massimo rispetto. E continuiamo quindi il nostro viaggio nel sistema produttivo italiano e parliamo del mondo dell'artigianato. 349-238-6666 per i vostri sms. Il mondo del commercio e dell'artigianato si è riunito recentemente in un sistema, si chiama Rete Imprese Italia. Noi da sempre diciamo che più reti si fanno, più sistemi integrati si fanno, meglio è, più massa critica si riesce a fare. Dentro ci sono la Confartigianato, la CNA, la Confcommercio, Confesercenti e Casa Artigiani. Nel caso specifico sono usciti i dati di Casa Artigiani, quindi un dato congiunturale anche sull'andamento del settore. Qualche buona notizia c'è, lo dico subito, e siamo in collegamento allora con Casa Artigiani, raggruppa circa 100.000 italiani, 100.000 artigiani e anche italiani. Siamo in collegamento con il presidente che ci fornirà i dati relativi alla Lombardia, Mario Bettini. Buonasera. Buonasera, dottore. Allora, dicevo, comunicato con di cauto, forse ottimismo eccessivo, di cauta ripresa. Che dati avete avuto a livello soprattutto tendenziale, quindi anno su anno e nella parte finale del 2010? Guardi, anno su anno per molti parametri siamo arrivati alla parità rispetto al 2009, quindi quello che era una cauta ripresa è stata tutta recuperata. I dati del terzo trimestre ci avevano un po' ingannato e invece i risultati del quarto sono abbastanza positivi in senso generale. Per quello che riguarda invece alcuni elementi che segnalano i vostri associati, per esempio l'accesso al credito, perché sappiamo che l'accesso al credito è migliorato, da quello che ci risulta, nelle medie, nelle grandi imprese non c'è mai stato un grosso problema, nelle medie, medio-piccole c'è stato un miglioramento, voi che rappresentate le piccole e piccolissime imprese, avete ancora problemi nell'accesso al credito? Qualche problema c'è soprattutto con i grandi istituti bancari, non si può più parlare del sistema bancario, però qualche difficoltà c'è ancora, specialmente anche per gli artigiani fra le ditte più piccole, le microimprese, dove tutte le regole dei vari Basilea sono un sovraccarico burocratico insostenibile. E quindi vale ancora molto di più il rapporto fiduciario fra la banca locale e la ditta. E poi un grosso aiuto viene dai confidi che si sono associati, si sono consolidati. Ecco, però ieri in extremis, in serata, è stato raggiunto un accordo al tavolo tecnico presso il Ministero dell'Economia proprio sul rapporto banche-imprese, mi riferisco alla moratoria per i debiti. Da quello che si è capito passa la proroga altri 6 mesi, quindi si arriverà fino a luglio o a fine giugno, e adesso verrete coinvolti anche voi come le altre associazioni imprenditoriali. È tutto il sistema che viene coinvolto, e questa è una boccata di ossigeno importante, perché era fra le cose che avevamo chiesto, di spostare i termini della moratoria, e specialmente, come le dicevo, per i piccoli questo non è poca cosa, ecco. Perché almeno da quel punto di vista arriva, come lei l'ha chiamata, una boccata d'ossigeno. Tra l'altro nel 2010 abbiamo visto che, dato Unioncamere, c'è stato un saldo attivo tra le morti, diciamo, di artigiani che hanno chiuso e artigiani che hanno aperto. Iscrizioni e cessazioni più 3.547 complessivamente. Vorrei capire se anche voi avete un riscontro in tal senso e comunque... Sì. Perché è un'inversione di tendenza interessante questa. Certo, vi sono tanti indicatori di tendenza positivi. Se dovessimo dare un giudizio globale, potremmo dire che c'è una svolta più marcata di quanto non ritenessimo alla fine del terzo trimestre. C'è da dire che uno dei dati non positivi riguarda l'occupazione, e quando l'occupazione viene meno, calano i consumi e non si può parlare di ripresa decisa e di sicuro orizzonte positivo, ecco. Bene, grazie al presidente di Casa Artigiani Mario Bettini, presidente Lombardia. Speriamo che qualche cosa di positivo l'abbiamo sentita, presidente Bettini. Certo, tutto si sta muovendo, ci mancherebbe, però insomma qualcosa anche nel mondo vostro, ripeto, i piccoli sono quelli che hanno pagato di più, inutili che scriviate il contrario. Adesso però noi restiamo in tema di Italia, di investimenti, di aziende, per parlare di quello che è uscito oggi da un convegno molto importante, anche perché in questo caso non erano piccoli quelli che vi partecipavano, era il numero 1 di Telecom Italia, il numero 1 di Intesa San Paolo, e altri personaggi, tra cui il presidente della Camera. 349-238-6666 per i vostri sms. Per rifare l'Italia, la grande sfida dell'innovazione, organizzata oggi da Telecom Italia, in un paese in cui purtroppo la classifica sul fronte degli investimenti in ricerca e sviluppo ci vede avere la metà della media europea, un terzo rispetto al Giappone, la metà della Francia e la metà anche della media OCSE. In uno studio pubblicato nel 2010, l'OCSE ha calcolato che l'Italia infatti è al 28° posto nel rapporto tra spese in ricerca e sviluppo e prodotto interno lordo. Ora però qui una cosa la devo dire. Se si va a guardare il dato, noi spendiamo l'1,13% del PIL, cioè 16 miliardi di euro in ricerca e sviluppo. La maggior parte di questi soldi vengono dal settore pubblico. Però attenzione, perché spesso le nostre piccole e medie imprese fanno ricerca e sviluppo, cioè innovazione di processo, di prodotto, e non la mettono in quella voce, un po' delle volte per motivi fiscali, ma altre volte perché non lo sanno nemmeno. Per cui da noi purtroppo la statistica sballa, cioè le piccole e medie imprese fanno molto più ricerca e sviluppo di quanto non esca dalla classifica. Al convegno ha partecipato il presidente della Camera Gianfranco Fini, che ha sottolineato la necessità di un impegno condiviso per eliminare vincoli burocratici e cattivo utilizzo dei fondi europei, gli italiani per l'innovazione. Adesso vediamo se arriva, chiedo venia, è bloccato il computer, vediamo se possiamo andare avanti. Allora, adesso vi facciamo ascoltare anche la voce del presidente della Camera, non pensate al complotto politico, ci mancherebbe. Tutto tranne che quello, sentiremo dopo Fini, allora invece l'intervento, se riesce a partire meno quello, del premio Nobel all'economia nel 2006 Edmund Phelps, che ha detto attenzione, il ruolo delle banche nel sostenere l'innovazione è fondamentale. Sentiamo almeno Phelps. The idea of the bank for innovation is... L'idea di una banca per l'innovazione è di far sì che i governi creino un nucleo di banche dedicato a investire in aziende impegnate in progetti che comportino innovazione. Lo scopo è di rendere molto più semplice per le imprese medio-piccole in Italia intraprendere il percorso dell'innovazione. L'Italia primeggia da molti punti di vista. C'è molta concorrenza e sembrerebbe il candidato ideale per la spinta all'innovazione. In generale, le banche tradizionali non percorrono questa via e i venture capitalist, sebbene siano apprezzati, non sono numerosi. Non ce ne sono abbastanza nemmeno negli Stati Uniti. E la loro quota di finanziamento è piccola, pari a circa un punto di PIL americano. È certamente una quota importante nel contesto economico degli Stati Uniti, ma comunque è molto piccola. It's a very important slice of what happens in the American economy, but it's very small. Ah, Allora, così il premio Nobel dell'economia Edmund Phelps, meno tasse, meno burocrazia, ha chiesto anche il numero uno di Telecom Italia, il ministro delegato Franco Bernabè. In Italia ci sono tantissimi imprenditori, tantissima gente che ha vocazione di fare l'impresa, anche perché francamente non c'è grande possibilità di essere assunti né nelle grandi né nelle piccole imprese, e quindi il problema uno se lo deve risolvere con le sue mani, sia mettendo in piedi un'azienda per conto suo, sia eventualmente emigrando all'estero, dove purtroppo quello che avviene è che moltissimi ragazzi con grandi capacità imprenditoriali, grande voglia di fare, sono costretti ad andare all'estero perché all'estero trovano un ambiente più favorevole. La verità è che in Italia, se voi vi mettete a fare impresa, vi caricate prima di tutto di una struttura di costi fissi che sono ingestibili. Il programma per l'innovazione, il programma per il rilancio dell'Italia è molto semplice. Credo che la ricetta sia una ricetta che tutti quanti hanno sulla punta delle dita. Bastano meno tasse, meno burocrazia, direi, aggiungerei anche meno, diciamo, rigidità sul mercato del lavoro. Ma con queste tre cose si creano le condizioni perché gli spiriti imprenditoriali italiani, che ci sono e sono tanti, si possano sviluppare. Meno tasse, meno burocrazia e, insomma, e meno rigidità sul lavoro. Fatele, non Bernabè che fa il ministro delegato alla Telecom, la classe politica, faccia esse ste riforme, dai. Non se ne può più, andiamo avanti. GR, poi parliamo del... Nel frattempo, mentre le riforme non vengono fatte, i redditi delle famiglie italiane sono calati del 3%, non capitava dal 1995, ci sentiamo dopo il GR. E 10 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora concludiamo l'approfondimento sugli spunti per aumentare il grado di innovazione e anche di sviluppo di questo paese, e poi invece arriviamo al tema forse più forte del giorno, e quindi il reddito degli italiani. 349-238-6666 per i vostri sms. Dicevamo degli interventi degli altri personaggi, a partire da quello del Presidente della Camera Gianfranco Fini. Abbiamo sentito prima Franco Bernabè, numero uno di Telecom Italia. Sentiamo allora Fini, e scusate ancora per l'interruzione di prima. La sfida politica è quella di farla crescere questa Italia dinamica, di sostenerne la creatività e la voglia di fare imprese e innovazione, di facilitarne l'accesso al credito indispensabile per realizzare gli investimenti. Le difficoltà e i ritardi del nostro sistema sono purtroppo noti, perché in Italia non è sufficiente avere una buona idea e la capacità di realizzarla per poi riuscire davvero a far partire una nuova impresa. I vincoli burocratici sono ancora soffocanti e paralizzanti. I fondi pubblici italiani ed europei riservati all'innovazione e alla ricerca risultano spesso male utilizzati o non utilizzati affatto. All'esiguità delle risorse statali destinate alla ricerca, l'apporto pubblico alla spesa in tale settore è pari allo 0,56 del PIL, si unisce anche una bassa propensione all'investimento di capitali privati, anche per la scarsa diffusione dei più moderni sistemi di finanziamento. La politica può fare molto per rimuovere questi ostacoli e creare un sistema propizio alla crescita delle iniziative più innovative. E non mi riferisco soltanto alle possibili misure per il rilancio della competitività generale del sistema, che sono già oggetto di dibattito, in alcuni casi da anni, la semplificazione amministrativa, gli incentivi fiscali, le maggiori risorse da destinare alla ricerca e all'università, l'investimento sulla banda larga, necessario per favorire il pieno accesso ai servizi telematici. Penso anche a politiche specificatamente dirette a favorire imprenditorialità e nuove professionalità nei settori più avanzati. L'arco delle possibili misure è ampio e va dagli incentivi alle aziende che investono sull'innovazione tecnologica alla realizzazione di un sistema a rete che coinvolga imprese, università, istituti di ricerca, enti pubblici. Così il Presidente della Camera Gianfranco Fini. E l'altro intervento che vi facciamo ascoltare dopo quello del premio Nobel Phelps di Franco Bernabè, numero uno di Telecom Italia, di Gianfranco Fini, è quello di Corrado Passera, consigliere delegato di Intesa San Paolo, il quale ha ricordato come in questo paese, insomma, ci sia un doppio fattore, la bassa produttività e i bassi redditi, quindi entriamo anche poi nel tema, nell'ultimo tema di questa puntata. La cosa più inquietante è la nuvola su una parte dell'Italia. Questa dissoluzione sta andandosene o sta arrivando? La nostra produttività ha perso posizioni molto importanti negli ultimi 10-15 anni, ma soprattutto negli ultimi 10, e oggi ci troviamo nella, per certi versi, questo sì, in una delle peggiori delle situazioni possibili, perché abbiamo bassa produttività, alto costo del lavoro e bassi redditi. Insomma, una combinazione decisamente preoccupante. Se noi vogliamo usare l'innovazione per crescere, per far crescere il Paese, per far crescere in maniera sostenibile l'economia del Paese e l'occupazione, perché a noi non interessa una crescita che non porti occupazione, noi tutto questo lo facciamo perché si crei occupazione, e se dovesse continuare non solo a esserci crescita così bassa che distrugge occupazione, ma una crescita come in alcuni paesi, che c'è sulla carta, che c'è nella statistica, ma non c'è nell'effetto sociale più rilevante, che è quello dell'occupazione, non ci basterebbe. Allora, che l'innovazione sia il motore fondamentale in un mondo e in un periodo storico come questo, sia per la crescita, sia per la produttività, sia per il dinamismo, sia economico che sociale, è acquisito. Ci siamo poi detti che innovazione è ricerca, non è solo ricerca, ma sicuramente la ricerca è un elemento molto rilevante di ciò che poi innesca l'innovazione, e qui noi siamo come paese lontani dai livelli che altri paesi, che infatti hanno maggiore crescita di noi, si portano dietro. Allora, bassi redditi, in realtà appunto oggi l'Istat fotografa una ricchezza degli italiani che la crisi ha ridotto. Nel 2009, nel rapporto reddito disponibile delle famiglie nelle regioni, c'è stato un calo del 2,7% del reddito disponibile delle famiglie italiane. È la prima flessione dal 1995. Al nord il calo più forte, meno 4,1% nel nord-ovest, meno 3,1% nel nord-est, meno 1,8% il reddito delle famiglie nel centro Italia e meno 1,2% nel sud. Questo anche come conseguenza del fatto che la parte più produttiva del paese sta al nord. Addirittura Calabria e Sicilia sono le uniche regioni italiane il cui reddito delle famiglie ha mostrato tassi di crescita lievemente positivi, forse perché pesa anche di più il pubblico impiego, l'impiego diciamo regionale e locale. Soprattutto Piemonte e Lombardia, le due regioni che hanno perso di più. Questo si unisce a un'indagine di ODM Consulting che abbiamo avuto modo di vedere sulle retribuzioni dei manager delle 140 aziende quotate a Piazza Affari. E allora ringrazio per averci raggiunto in collegamento Mario Pavassori, che è professore, insegna gestione aziendale al Politecnico di Milano ed è presidente di ODM Consulting, quindi chi monitora mensilmente l'andamento di redditi e retribuzioni. Buonasera. Buonasera a voi. Vassoli, mi dà un titolo, poi dopo il traffico invece andiamo alle singole voci. Cosa avete scoperto guardando i bonus di 1745 tra amministratori delegati, membri del consiglio di amministrazione, direttori generali, dirigenti con responsabilità strategiche? Abbiamo scoperto una cosa importante, che vi è scarso collegamento tra la retribuzione, la remunerazione di questi signori e la performance dell'azienda, o comunque sembra che ci sia scarso collegamento. Cioè, c'è scarso collegamento tra i bonus presi e le performance ottenute in azienda. E la performance dell'impresa, dell'azienda che governano. Ma viaggiano su due binari diversi. Ma invece i nostri bonus rispetto a quanto guadagna l'impiegato medio, il guadagno dei nostri manager, top manager, è così diverso in proporzione come quello in America o un po' meglio? No, noi abbiamo un cosiddetto multiplo di circa 50 volte. Cioè, se io guadagno 1000 come impiegato, un neolaureato oppure un impiegato che guadagna 25.000 euro, l'amministratore delegato nella finanza ne guadagna 1.135.000, vale a dire 50 volte di più. Ok, 1,50. Segnalo che in America si è passati da 1,70 negli anni 70 a 1,240. attualmente, per cui l'America è comunque un altro mondo e non mi sembra un grande modello da imitare. Traffico e poi le singole voci e anche il rapporto dell'Istat. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta, ultima parte di Focus Economia. Allora, dicevamo del non solo del rapporto Istat che fotografa il 2009 sui redditi delle famiglie italiane, ma anche del rapporto DM Consulting sui guadagni e i bonus dei manager, dei top manager. Allora, Vavassori, quant'è la retribuzione media di un amministratore delegato in Italia? Esattamente, l'amministratore delegato in Italia sono 718.000 euro, però la media non fa giustizia, è un dato mai fa giustizia. Parlare, però non è il vero dato. La cosa più interessante è la variazione, quella che noi chiamiamo la curva retributiva, cioè quanto è la parte, il minimo, quanto è il massimo. Quindi noi possiamo andare da un livello di 700, una media, a fronte di una media di 600, 718, abbiamo un minimo che può essere intorno ai 300, 280, un massimo di 1,5 milioni. Quindi abbiamo questo grande scostamento, insomma, ma questo è, direi che è abbastanza normale, insomma, in queste retribuzioni, mentre le retribuzioni contrattuali, no, tendono ad avere un rapporto 100-200, no, le nostre in questo caso hanno un rapporto 100-1500. Allora, i differenziali retributivi che voi avete anche fotografato, il neolaureato, quindi il livello più basso, prende in media 24.000 euro lordi l'anno, so che qua già qualcuno si arrabbierà, ma insomma questa è la media vostra. Il quadro, stiamo parlando del settore finanza in questo caso, 53.000 euro lordi l'anno, quindi 2,2 volte il neolaureato. Il dirigente, sempre del settore finanza, 113.000, cioè quasi 5 volte il neolaureato. L'amministratore delegato del settore finanza, 1.135.000 euro, siamo a quasi 50 volte il neolaureato. La domanda forse è scontata, ma è il settore finanza quello delle aziende che voi avete analizzato, cioè le 140 imprese quotate Piazza Affari, quello che dà i compensi maggiori? Guardi, si è parlato molto negli ultimi anni della retribuzione dei top manager, soprattutto negli ultimi 2-3 anni, anche perché a fronte della crisi ci sono stati dei salvataggi con capitale pubblico e quindi giustamente qualcuno ha voluto vederci più chiaro. In realtà anche la Banca d'Italia proprio recentemente ha appena emesso delle disposizioni e ha chiesto a tutte le banche di fare delle osservazioni. In realtà l'ABI poi ha risposto, sta rispondendo, contestando anche alcune richieste della Banca d'Italia. Ma qual è il problema su questi temi? È che molte volte queste informazioni, se non si conoscono, no, sembrano molto più eclatanti. Sono d'accordo, no? Sono d'accordo. Cioè, basta vederle, bisogna vederle e soprattutto bisogna analizzarle con un certo dettaglio, cercare di capire, facendo una segmentazione, di capire le differenze ad esempio tra il mondo delle banche, il mondo delle assicurazioni e il mondo produttivo o il mondo dei servizi. Noi abbiamo scoperto ad esempio che c'è una grande differenza, cioè nel mondo delle banche e delle assicurazioni spesso vi sono delle retribuzioni molto più elevate rispetto ad esempio all'industria. Sembra che ci sia uno scarso collegamento tra la macchina che produce valore e poi la retribuzione. E l'olio della finanza che la fa girare. E devo dire che la Banca d'Italia, ma anche il governo, soprattutto l'Unione Europea, sta facendo dei grandi sforzi da questo punto di vista per imporre o per suggerire alle aziende, soprattutto a quelle quotate in borsa, ma anche alle altre, di essere molto più trasparenti da questo punto di vista, perché nascondere queste informazioni non serve, serve solo per fare maggior fumo. Sì, non solo, anche maggior guadagno delle volte. Però insomma, a me sembra che la cosa più importante per uscire da ogni demagogia, e poi chiudiamo con i manager, le cose più importanti siano due. Una, quella che lei ha appena ricordato, e cioè, attenzione, c'è una grossa differenza tra chi guadagna, tra i guadagni a livello di neolaureato, quadro, dirigente, amministratore delegato nel mondo della finanza e i guadagni decisamente più bassi nel mondo dei servizi e delle imprese. E anche questo potrebbe essere spunto di riflessione, cioè tutti i mestieri sono degni di rispetto, ma insomma la finanza non è che debba per forza essere pagata di più, lo dico col massimo rispetto, qualche danno la finanza mondiale ha anche creato, insomma. Perché per forza queste differenze? Beh. E l'altro aspetto, professori, è quello che riguarda le performance, cioè io forse dico una cosa che non farà piacere, più che il guadagno singolo, cioè più che il 1.135.000 euro di media del dirigente, dell'amministratore legato, a me interesserebbe sapere che li ha guadagnati giustamente, oppure che li ha guadagnati a fare, direbbero. Cioè è chiaro che se tu hai, cambi il risultato economico di un'azienda, fai crescere il titolo, va tutto bene, assumi, cioè è giusto anche che tu guadagni bene. Invece lei ci sta dicendo che questi bonus, un po' sul modello americano, vengono dati in realtà non guardando tanto quello che è il rendimento. Allora lì non si possono poi fare i nuovi contratti per la Fiat e non guardare quello che fanno i manager, eh? Vavassori. Sì, allora, sì, bisogna dire due cose. Uno, che c'è un livello di correlazione che appare molto molto molto basso, cioè abbiamo addirittura utilizzato un indice di correlazione tra le EBITDA o i cavi e il bonus, diciamo, no, erogato al manager, al top manager, e l'indice è veramente basso, è 0,005, quindi è un indice, vuol dire che c'è scarsissima relazione. Però al di là di questo c'è un altro elemento secondo noi molto importante, che la parte variabile, diciamo legata ai risultati, viene assegnata solo a un 35% dei dipendenti, dei dirigenti, direttori generali, amministratori delegati, eccetera. Questo significa che mentre noi stiamo facendo degli sforzi in tutto il mondo industriale per legare, per valorizzare il merito, in questo caso mi sembra che il merito sia poco valorizzato, oppure magari lo è attraverso altri strumenti come ad esempio alcune clausole accessorie, patti di retention, patti di stabilità, eccetera, che diventano di fatto un modo per riconoscere il merito anche dell'amministratore. E poi l'ultimo aspetto di cui già abbiamo parlato nella prima ora del programma, le famiglie italiane. Allora, al di là della denuncia della Caritas, la notizia di pochi minuti fa, la Caritas di Venezia segnala che le nuove povertà in Italia stanno colpendo soprattutto il settore impiegatizio, i ceti medi che non conoscono i percorsi di aiuto e non hanno grandi risorse per riciclarsi, cioè i 50-60 anni quadri con letti bianchi che fanno la fila alla Caritas di Mestre. Io lo dico, insomma, perché è una notizia senza nessun populismo. Vorrei capire, Vavassori, il dato di oggi dell'Istat è la prima volta dal 95 che cala il reddito delle famiglie italiane, tra l'altro del 3-4% al nord. È dovuto a che cosa, visto che lei studia anche gli stipendi degli impiegati, dei quadri, degli operai? Sì, a noi risulta che negli ultimi 6 anni l'incremento retributivo medio delle varie categorie, dirigenti, quadri, eccetera, è stato intorno ai 7-8 punti, con un'inflazione che è leggermente più elevata. Quindi questo è un primo dato, cioè a partire dal 2006 al 2010 noi abbiamo avuto un'erosione, anche se l'Istat qualche volta non attesta questo dato, poi andando a vedere le retribuzioni di fatto questo dato è reale, ed è reale soprattutto negli ultimi periodi per la parte, diciamo, alta dell'organizzazione, quindi per i dirigenti e per gli operai, mentre quadri e impiegati sembra che se la cavino meglio in questo momento. Questo è il primo dato. Il secondo dato, se ho ancora qualche secondo, 20 secondi. È sì, che nel 2010, nel 2009, la cassa integrazione è stata di 1.2 miliardi di ore. Certo. Se noi pensiamo solo che nel 2006 era 230.000 ore, è aumentata di 6 volte. Quello ha inciso pesantemente. Questo ha inciso sicuramente pesantemente. Quindi sia perché... No, è chiarissimo, ma se l'ho capito, cioè dice da un lato operai e dirigenti, dall'altro la cassa integrazione. Io la saluto e la ringrazio, come sempre chiarissimo, Mario Vavassori. Da Sebastiano Barigioni le auguro una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.